Last Minute, agenda degli appuntamenti e contenitore culturale di Radio Città Fujiko. Nuovamente in diretta dagli studi di Via Zanardi, dopo l'appuntamento con il GR di Radio Popolare, portiamo come ogni mercoledì il motivo di incontro, musica che tra l'altro fa nascere nuovi incontri, non solo tra il pubblico ma anche tra i DJ al Fondo Comini, via Pioravanti 68, e apre la console per tutte e per tutti, con la particolarità, mi raccomando, del vinile. E il mio desiderio è stato quello di portare in rassegna radiofonica nel Last Minute anche i DJ del New Jazz Nova, il combo che dà musica in una formazione oramai, mi permetto di dire, consolidata, ma che ovviamente, come la console, resta aperta. È il momento di dare il buongiorno a Manuel. Buongiorno Manuel, benvenuto. Buongiorno Willy, buongiorno a tutti. Come stai intanto? Ti sento con voce più squillante, per cui è già finita anche la convalescenza. Stasera ti tocca di lavorare. sto in fase di guarigione, va tutto bene. Stasera non vedo l'ora di ascoltare un po' di musica con gli amici, con voi e soprattutto di proporla, anche perché sai, tu sei la parte più elettronica tra drum and bass, sonorità ambient, originalità di ricerca nelle tue selezioni. Ho portato il paragone New Jazz da Nova, poi spiegherò magari anche il perché. Allora, a proposito di queste tue selezioni, un percorso musicale nelle tue ricerche in maniera sintetica ce lo puoi dare, Manuel? Beh Willy, sai, io sono diversi anni che vado un po' in giro a cercare musica, a cercare chicche, quindi mi piace davvero trovare quelle perle poi da far sentire agli amici, al pubblico, insomma, che gradisce. Sono 30 anni che metto su dei dischi e l'amore per il vinile rimane ancora attaccato nonostante la spietata concorrenza del digitale, ma è come leggere un buon libro piuttosto che sai, leggere il libro su TV. Io sono attaccato ai vinili e continuo questa passione, questo amore per cercare questa musica un po' in tutti i campi, elettronica e anche variare nelle jazz, nell'hip hop, ovunque vado dove c'è buona musica ci metto il becco, ci metto le orecchie, ecco. E ci metti una grande originalità, il mio abbraccio ti arrivi concretamente questa sera, ma telefonicamente in questo momento, perché hai detto in maniera condivisibile quella che è una sensazione che ci accomuna, ci appartiene, l'aspetto di una musica non liquida ma assolutamente da vivere, da toccare, da amare, anche certo, da modificare grazie al nostro gusto, con questo compilare, assemblare, proporre, incuriosire. Tu sei appunto, con la tua originalità, la parte che più si addice a queste sonorità elettroniche, dal drum and bass ai remix, hai portato Krüderendorfmeister, hai portato i Foriero, e per me è stato veramente un momento di livello importante nelle nostre selezioni musicali. Avrai un'infinità di dischi, capisco benissimo anche questo aspetto che ci accomuna, Manuel. Esatto Willy, esatto, tanti anni di ricerche, una voglia davvero sempre di fare buona musica e di creare una buona onda, come si suol dire, no? Certo, sensazioni che porteranno, oltre che la bellezza del posto, la possibilità di stare assieme, l'orario che è molto bello, dalle 18 alle 21, così chi si alza presto ha la possibilità poi di decidere se proseguire oppure, insomma, il meritato riposo. Stiamo sfatando un po' il mito del DJ che va a letto alle 4 di mattina, e questa è un'altra cosa molto bella, secondo me. Vi aspettiamo ovviamente, sia per quanto riguarda la partecipazione diretta, sia per l'ascolto, sia per le possibilità che questo posto, come micro e macro sensazione, riesce a regalare. Ricordiamo che in via Pioravanti 68, la curatela dei ragazzi, che salutiamo e ringraziamo, di Binario 69, e gradirei molto portare avanti questa esperienza con Andrea Utensili Pelé, che ben conosciamo, con Radio Città Fujiko, e l'entusiasmo di Alessandro, che tra l'altro allestisce sempre delle conoscenze console che sembra di essere allo studio 54, Manuel. È verissimo, è verissimo. Un grande professionista. Sì, sì, di passione, impegno, esatto. E tanto porta originalità, Manuel. E insomma, cercherò di fare un po' il collante a tutto ciò per quanto riguarda New Jazzanova. Perché New Jazzanova, ricordando il combo tedesco che ben conosci, immagino, per la Sonar Collective, che ha questa eterogeneità nella proposta musicale. Non credo che Michael Rainbow si offenda per questo paragone, ma rispettiamo sempre ovviamente quello che è un diritto di originalità. E quindi l'appuntamento è questa sera. Io ti lascio perché so che hai degli impegni, giustamente, e poi insomma ti voglio ben preparato, oltre che per la musica, anche per quanto riguarda una tua immediata ripresa. Grazie, Manuel. grazie mille, grazie a tutti, un abbraccio, una buona giornata a tutti gli amici di Radio Fucico e a te, buona giornata. Manuel, una sorpresa ce l'hai questa sera, hai un disco che assolutamente vuoi citare? Assolutamente sì, è una chicca che ho preparato proprio per questa sera, Willy, però non voglio spoilerare. Non vuoi svelare? Okay. Assolutamente. A più tardi allora, buona giornata e grazie di cuore. A più tardi, grazie a te. Ciao, ciao a tutti, ciao. Buona giornata. United Future Organization dal Giappone, li conosciamo bene per Talking Loud di Gil Peterson. A proposito di grandi ricercatori, qui rielaborano la scrittura di Edu Lobo con un Upaneghigno che vede anche una reiterazione di grande gusto elettronico. Ecco, a proposito di sonorità molto particolari, Upaneghigno di Edu Lobo, così riletta. Co-conduzione, comunicazione in diretta, la possibilità di portare a casa i due volumi presentati oppure a sorpresa per quanto riguarda Silvia Albertazzi. Subito dopo la pubblicità, la rubrica letteraria dei 103.1 nel magico mercoledì del Breakfast Club. Buona giornata anche a Gianluca, condivido quello che hai scritto, ma è una cosa internos, quindi anche in questo caso non svegliamo, ma condividiamo. E ti auguro una buona giornata. Vi aspetto questa sera con Mini Express per il mercoledì con console aperta. dalle 18 alle 21, beh adesso non esattamente così precisi, però sapete la puntualità è una caratteristica che appartiene, per cui insomma l'orario è quello, Fondo Comini, via Fioravanti 68, curatela di binario 69. A tra poco!